Si complimentano con Monti per i progressi dell'Italia. Ugin Tao dirà di investire nel vostro paese. Articolo 18, la Camusso, bisogna restare sereni. Bonanni, Monti dovrebbe fare una verifica di governo. Nel pomeriggio il vertice fra Alfano, Bersani, Casini. Emilio Fede, i soldi rifiutati dalla Svizzera perché di provenienza sospetta, indaga la Guardia di Finanza. Rivoluzione all'Inter, in panchina Andrea Stramaccioni, il Mourinho dei giovani. Una buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il viaggio del Presidente del Consiglio Monti a Seul in primo piano. Monti che ha anche incontrato il Presidente americano e quello cinese. Il secondo vertice sulla sicurezza nucleare che si è chiuso a Seul è stata l'occasione per il Presidente del Consiglio Mario Monti per incassare una serie di elogi e apprezzamenti da parte di capi e di stati di governo stranieri, a cominciare dal Presidente americano Obama, che aveva visto soltanto un mese fa e che rivedrà il prossimo mese per il G8 e per il vertice della NATO a Chicago, ma anche da parte del Presidente cinese Xi Jinping, che gli ha annunciato che lui stesso chiederà alla business community cinese, alle autorità, alle istituzioni finanziarie cinesi di investire in Italia. Anche con il presidente russo Dmitry Medvedev, incontro molto cordiale, così come con il premier spagnolo Rajoy, con il quale si è chiuso un piccolo incidente. Monti, parlando agli imprenditori, aveva parlato di un rischio contagio che poteva interessare la Spagna. L'incidente ormai è chiuso. Il presidente Monti è partito adesso alla volta del Giappone, dove domani terrà una conferenza al Nikkei Shimbun e poi un incontro con il Kendaren, la Confindustria giapponese. Gerardo Pelosi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Seul. Questo dunque è quanto accade in Corea. Invece da noi in Italia impazza ancora il dibattito sull'articolo 18, prosegue dunque a distanza il dibattito fra governo e sindacati. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Se il paese non è pronto, il governo potrebbe lasciare, così aveva detto ieri il premier Monti. Dalla Corea è oggi la replica della leader della CGIL Camusso. Il paese è sereno perché sovrano resta il Parlamento e lì, secondo il sindacato, esistono margini per modificare alcune norme, a partire da quella sui licenziamenti economici. Occorre insomma riconoscere il ruolo del Parlamento, che non può essere in alcun modo condizionato. Susanna Camusso ha poi fatto intendere che sul pacchetto di 16 ore di sciopero non è pensabile per il momento fare marcia indietro. Ma neanche gli altri sindacati, seppur con accenti diversi, allentano la presa. O si riesce a trovare un compromesso in Parlamento che accolga le nostre istanze, ha avvertito il segretario della UIL Angioletti, oppure tra un anno saremo ancora a parlare dello stesso articolo 18, che ormai ha assunto una dimensione totalmente politica. Anche Bonanni della CISL insiste, bisogna modificare l'aspetto che riguarda i licenziamenti economici per rendere credibile la riforma e per evitare che si inseriscano in modo surrettizio altri tipi di licenziamenti. C'è comunque un nodo politico, secondo Bonanni, che chiede a Monti di fare una verifica con la maggioranza. E per il momento da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi. Si terrà nel pomeriggio il vertice di maggioranza PDL, PD, Terzo Polo, per fare il punto sulle riforme e non solo. In diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Sì, un vertice a tre per discutere anche delle divergenze nella maggioranza. I leader del PDL, PD e UDC si incontreranno qui alla Camera alle 15.30, in agenda ufficialmente le riforme costituzionali e la legge elettorale, ma è difficile che Alfano, Bersani e Casini non facciano il punto anche sulla riforma del mercato del lavoro e sull'articolo 18 che stanno approdando in Parlamento in un momento molto teso all'interno della maggioranza. Un incontro voluto soprattutto da Casini, che sulle riforme ieri aveva avvertito siamo in zona Cesarini, mentre sulla possibile crisi di governo continua lo scontro PD-PDL. Questa mattina per i democratici interviene il capogruppo al Senato Anna Finocchiaro. Suggerisco a tutti, dice, in particolare agli esponenti del PDL, di abbassare i toni e di evitare di agitare le acque inutilmente. Il Partito Democratico, garantisce Finocchiaro, è una forza responsabile che è aperta al dialogo e sostiene il governo Monti in modo convinto e leale. Per il capogruppo PDL al Senato invece, Maurizio Gasparri, è proprio il PD a cercare la rottura e a puntare sulle elezioni. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Dunque oggi pomeriggio, come sentivamo, l'incontro fra Bersani, Alfano e Casini, un incontro che arriva dopo le parole di Monti da Seul. Non tirerò a campare. Noi ci colleghiamo con Stefano Folli. che però nel frattempo è caduto, quindi ci collegheremo fra un istante. Allora ci colleghiamo con Bruxelles, perché abbiamo sentito che sono arrivati giudizi positivi da parte del presidente americano e di quello cinese a Seul, ma buono anche il giudizio sull'Italia nel rapporto sull'eurozona dell'OCSE. In diretta da Bruxelles, Antonio Pollio Salimbeni dell'agenzia di stampa Radio Cor. Antonio. Buongiorno a voi. Sì, effettivamente nel rapporto della diagnosi sullo stato dell'economia dell'eurozona, l'OCSE ha indicato che la posizione del deficit pubblico italiano non preoccupa come quella, per esempio, del debito spagnolo. Non parliamo naturalmente dei paesi sotto salvataggio, Irlanda, Spagna, Portogallo. Ciò nonostante viene indicato che l'Italia abbia ancora un problema di credibilità complessiva. Il segretario Angel Gurria ha indicato in una conferenza stampa di questa mattina come in ogni caso auspichi che la riforma del mercato del lavoro in discussione in Italia, in Parlamento, sia approvata, e quindi è un via libera alle proposte del governo Monti. E di Monti Gurria ha detto: giusto, al momento giusto, nel posto giusto. Grazie Antonio Pollio Salimbeni dell'agenzia di stampa Radio Cor da Bruxelles. Purtroppo non si sentiva un granché questo collegamento, e noi invece ci colleghiamo con Roma e con Stefano Folli, commentatore del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, dicevamo poco fa l'incontro oggi pomeriggio fra Bersani, Alfano e Casini, un incontro che arriva dopo le parole di Monti da Seul, una frase forse da non sottovalutare, la sua, quella che dice: non tirerò a campare. Stefano, c'è davvero il rischio che Monti in qualche modo possa mollare? Soprattutto è arrivato il momento che molli, i partiti sono pronti a riprendersi in mano la questione? No, i partiti non sono assolutamente pronti, e io credo che Monti con questa frase abbia voluto mettere sul tavolo una carta piuttosto importante, cioè la sua attuale insostituibilità. Di questo i partiti è bene che si rendano conto, perché il rischio è che ci si cali in questa eterna polemica improduttiva che è tipica del nostro paese, per cui alla fine non si fanno riforme, non si fanno leggi, ma c'è questo continuo cicaleccio politico, tra l'altro favorito dalla vicinanza delle elezioni amministrative. Io credo che Monti abbia voluto fare da deterrente con le sue parole a questo rischio, che è il più tipico rischio politico che noi conosciamo. Ecco, un articolo 18, questo che sta mettendo in difficoltà forse per la prima volta il governo Monti, ma anche i partiti che lo sostengono. Certo, è un equilibrio difficile da trovare, bisogna, io credo, rispettare anche le difficoltà e il travaglio del Partito Democratico. Il PDL secondo me sbaglia a voler tirare troppo la corda su questo tema, per ragioni politico-elettorali. È un equilibrio difficile, ma è possibile trovarlo, è possibile trovare un compromesso sul modello tedesco, è possibile soprattutto se c'è la consapevolezza, e queste parole del Presidente del Consiglio vanno in questa direzione, che tutti riconoscono che in questo momento è interesse comune dei partiti della maggioranza trovare punti d'intesa, ma remare tutti nella stessa direzione. Grazie a Stefano Folli, commentatore del Sole 24 Ore. Al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo fra l'Alcoa, sindacati e governo per scongiurare la chiusura del sito sardo. Come governo stiamo facendo il massimo per facilitare le trattative, ha detto il ministro Passera, ma sappiamo bene che non è garantito il risultato, perché ci muoviamo in un settore davvero molto difficile. Fuori la rabbia degli operai dell'Alcoa, che hanno gettato petardi, fumogeni e, secondo fonti sindacali, anche alcune bombe carta. Avrebbe dovuto debuttare sabato alla Scala di Milano il balletto con le musiche di Vasco Rossi, ma la CGIL del Teatro Milanese vuole far saltare la prima, mentre dalla direzione annunciano già l'annullamento della recita. Giancarlo Albori, leader della CGIL alla Scala, al microfono di Adriana Fracchia. Le ragioni sono fondamentalmente due: una è generale, legata all'articolo 18, per cui l'iniziativa più generale che la CGIL sta facendo, e poi c'è una ragione specifica interna al teatro, la questione della sicurezza, le norme sulla sicurezza. Noi abbiamo avuto degli incidenti in questo ultimo periodo, avevamo capito che il teatro aveva assunto degli impegni, cioè definire un protocollo sulla sicurezza, e sembrava che si incamminasse su questa strada. Noi abbiamo avuto una circolare che è girata, che invece tende a dire che come se fosse negligenza e disattenzione da parte di chi lavora. Adesso tutto questo lo consideriamo, come dire, una retromarcia rispetto agli impegni che avevamo capito che si erano presi, e conseguentemente abbiamo deciso questo stop per sabato. Il risultato finale comunque è questo sciopero di sabato. Noi oggi abbiamo un'assemblea alle ore 17, se vediamo un po' cosa accade. Cambiamo decisamente argomento perché parliamo del viaggio del Papa, dell'importante viaggio del Papa a Cuba. Oggi l'incontro con Raul Castro. La collega del quotidiano L'Avvenire, Lucia Capuzzi. Sicuramente sarà una giornata intensissima. Il Papa fa una breve visita al Santuario della Vergine del Cobre a Santiago di Cuba e poi vola a La Habana, dove lo attende l'incontro privato con Raul Castro, in cui sicuramente i temi saranno tanti e interessanti, e forse potrebbe partecipare lo stesso Fidel, che nessuno finora l'ha escluso, nessuno l'ha confermato. Secondo appunto le indiscrezioni da Cuba, dipenderà un po' da come sta Fidel. In realtà potrebbe la presenza di Fidel potrebbe in qualche modo risultare ingombrante per il fratello Raul, che cerca di presentarsi un po' come il volto innovativo del regime, il volto riformista. Il Papa all'arrivo all'aeroporto a Santiago di Cuba ha fatto un discorso parlando del futuro dell'isola e in questo senso diciamo che si potrebbe metterlo accanto al discorso che ha fatto invece Raul Castro, andato a prendere il pontefice all'aeroporto, che invece ha fatto ancora un discorso basato sul passato, sull'opposizione e sul confronto con gli Stati Uniti, ha di nuovo presentato Cuba come una fortezza assediata. Ecco, le due dimensioni di Cuba si sono viste: da una parte il Papa che parla di futuro, di pace, di riconciliazione, di rispetto della dignità umana, dall'altro ancora un governo cubano che invece punta a giustificare la repressione e l'assenza di regole democratiche con il fatto di doversi difendere dall'aggressione del nemico americano. E questa è una buona notizia che arriva dall'estero, perché il governo siriano avrebbe accettato il piano di pace in 6 punti presentato dall'inviato dell'ONU e della Lega Araba Kofi Annan. Davvero una buona notizia, anche se per vedere davvero se lo è dovremo aspettare le prossime ore e i prossimi giorni. Ma torniamo a parlare di diritti umani, perché un esule tibetano, come sapete, ieri si è dato fuoco in una strada di Nuova Delhi nel corso di una manifestazione contro la visita del premier cinese Hu Jintao vista per domani. L'uomo, 27 anni, è ricoverato in gravissime condizioni. Sono almeno 30 i tibetani, per la maggior parte monaci buddisti, che si sono immolati dal marzo 2009. Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International, al microfono di Alessandra Schepisi. Sono forme estreme che testimoniano della disperazione, della rassegnazione che c'è nella popolazione tibetana. Voi come Amnesty International avete rivolto molti appelli, come vi state muovendo su questo? Continuiamo a chiedere al governo di Pechino di rispettare il diritto riconosciuto a livello internazionale, sottoscritto anche attraverso accordi della comunità internazionale da parte della Cina, il diritto alla libertà di culto, alla fine della discriminazione economica, sociale e soprattutto culturale nei confronti dei tibetani. Chiediamo che ci siano inchieste da parte delle autorità cinesi sui casi di esecuzioni extragiudiziali, di torture, di arresti arbitrari che sono avvenuti proprio nel corso delle proteste e nelle quali poi ci sono i monaci che si danno fuoco. A Seul, Stati Uniti e Cina si complimentano con Monti per i progressi dell'Italia. Hu Jintao dice: dirò di investire nel vostro paese. Articolo 18, bisogna restare sereni, invita la Camusso. Bonanni, Monti dovrebbe fare una verifica di governo. Nel pomeriggio il vertice fra Alfano, Bersani e Casini. E ripartiamo dalla vicenda che coinvolge il direttore del TG4 Emilio Fede. La Svizzera dice no ai suoi soldi perché di dubbia provenienza. Nega tutto Emilio Fede. Il direttore del TG4 definisce totalmente falsa la notizia secondo cui Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza starebbero indagando su di lui per un tentativo non riuscito di portare soldi in Svizzera. Secondo il Corriere della Sera, a dicembre Fede si sarebbe presentato in una filiale di una banca a Lugano per versare 2,5 milioni di euro in contanti contenuti in una valigetta, soldi che però sarebbero stati rifiutati da un dipendente dell'istituto di credito che riteneva ritenendoli forse di provenienza dubbia, avrebbe poi segnalato la vicenda alle autorità. Ad incidere sulla decisione di respingere quel versamento, forse anche il clamore mediatico suscitato dalle inchieste giudiziarie nelle quali Fede è indagato, quella per i festini nelle residenze di Silvio Berlusconi e quella per il fallimento della società di Lele Mora. Il diretto interessato respinge però ogni accusa e annuncia querele. È un falso organizzato, si torna alla carica per mettermi in difficoltà e convincermi a lasciare la direzione del TG4, commenta Fede. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Negozi fantasma, sconosciuti dal punto di vista fiscale perché su quegli spazi non sarebbe mai stata pagata la vecchia ICI. Il fatto è questo: secondo alcuni commercianti regolari, la gran parte degli spazi che si trovano nei mezzanini delle fermate della metropolitana milanese non sarebbero registrati al catasto, ma verrebbero affittati lo stesso a commercianti che in quegli spazi aprono dei negozi. Musica, scarpe, mobili, bar, tabacchi, nei mezzanini della metropolitana di Milano si vende di tutto. Eppure questi 300 negozi esistono nella realtà, ma non sulle mappe catastali. Così i commercianti concorrenti hanno presentato un esposto alla Procura di Milano, che ha aperto un fascicolo di indagine, per ora senza ipotesi di reato né indagati. Ovviamente tutto questo sarà oggetto di indagine, per ora si tratta di un'ipotesi suggestiva, ma tutta da verificare. Certo, se fosse così si tratterebbe di un danno notevole per l'erario, ma anche, come spesso accade, per i negozianti concorrenti, che invece la tassa l'hanno pagata. Infatti sono molto arrabbiati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dall'azienda irlandese sarebbe stata acquistata e inviata in Italia una sola confezione di sostanza killer contenente nitrito di sodio, quel nitrito di sodio che avrebbe ucciso la giovane a Barletta, e sono state rintracciate tutte le aziende che hanno acquistato confezioni di questa ditta. Amedeo Bianco, presidente della Federazione Nazionale Ordine dei Medici, al microfono di Alessandro Milan. È stata commessa, come dire, è stata avviata una procedura non corretta, una procedura sbagliata. Tra l'altro mi pare che procedura per procedura non avesse nemmeno l'autorizzazione il centro, cioè sì, lo studio non era... avesse nemmeno la corrispondenza a quei requisiti che riguardano sia le strutture sia le procedure attivate per poter esercitare un'attività sanitaria. Quindi siamo in un contesto, come dire, di larga devianza dalle norme di sicurezza. Azzerato il fondo per fronteggiare le calamità naturali, sentiamo. L'infortunio, chiamiamolo così, era già capitato per il decreto liberalizzazioni. 5 norme non avevano copertura finanziaria, secondo la Ragioneria Generale dello Stato. Ora tocca al provvedimento sulle semplificazioni. La questione riguarda il fondo per le calamità naturali. Cosa è successo? Che nel decreto originale il governo aveva previsto un aumento automatico delle accise sulla benzina in caso di prelievi dal fondo sugli imprevisti, che vale 600 milioni di euro. Un emendamento approvato alla Camera aveva cancellato quel meccanismo. La ragioneria fa notare che solo l'anno scorso le emergenze di quel tipo sono costate 1 miliardo di euro. Il problema c'è a questo punto perché il semplificazioni ha già avuto l'ok di Montecitorio e in caso di nuova modifica dovrebbe passare dall'aula del Senato, mentre ora è in commissione, e poi tornare di nuovo alla Camera. Ma è un decreto legge, deve essere convertito entro il 9 aprile, tra appena 14 giorni. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stata presentata questa mattina la giornata nazionale della previdenza, che si svolgerà a Roma dal 10 al 12 maggio. Che sfida si apre per il welfare pubblico e privato dopo la riforma Monti-Fornero e l'estensione del metodo contributivo a tutti? Alberto Brambilla, già sottosegretario al welfare, oggi presidente di Itinerari Previdenziali, al microfono di Deborah Rosciani. Dopo la revisione Montefornero certamente si presenta per il nostro paese, soprattutto per i giovani, non soltanto per loro ma anche e soprattutto per loro, si presenta l'esigenza fondamentale di conoscere sicuramente gli esiti e quanta pensione prenderanno, assolutamente l'esigenza di farsi una pensione complementare per due ordini di motivi. Il primo, perché il contributivo pro rata sarà sempre più stringente, quindi tanto si paga, tanto si prenderà. Secondo, perché la speranza di vita media aumenta e in vecchiaia ovviamente ci vorranno più risorse che lo Stato darà sempre meno. Ci devo dire una cosa al governo: mi piacerebbe che incentivasse la comunicazione e incentivasse le forme di risparmio, perché più risparmio più democrazia. E prosegue la querela sulla sicurezza dello stadio olimpico dopo le critiche del presidente del Napoli, De Laurentiis. Poco fa le parole del presidente del CONI, Gianni Petrucci: stiamo valutando la possibilità di non concedere lo stadio olimpico per la finale di Coppa Italia, ha detto. Non abbiamo ancora avuto nessuna conferma dalla Lega Calcio. Ed ora, a proposito di calcio, la crisi dell'Inter, che ieri ha avuto l'epilogo che era nell'area ormai da tempo. Dopo sei mesi di calvario, solo sei punti nel girone di ritorno all'eliminazione da Coppa Italia e Champions, alle 21 di ieri sera è finita l'avventura di Claudio Ranieri all'Inter. La goccia è stata la batosta con la Juventus, ma l'idea era già nell'aria da tempo, e così Moratti ieri ha dato fiducia al giovane Andrea Stramaccioni, romano, fresco di vittoria nella Coppa dei Campioni Under 19 a Londra con la primavera nerazzurra contro gli olandesi dell'Ajax. Amante del gioco offensivo, ma non spericolato, la prima cosa che colpisce del nuovo allenatore è l'età, 36 anni, uno in meno del suo capitano Zanetti. Se non è un record, poco ci manca. Stramaccioni ha un curriculum di tutto rispetto, avendo vinto come tecnico diversi scudetti giovanili alla Roma, una specie di Mourinho giovane che si è fatto da solo arrivando sino in cima alla scala. Questo intriga Moratti, che spera con Stramaccioni di ripetere quello che fece Berlusconi con Arrigo Sacchi, quindi non l'ennesima soluzione tampone, ma un investimento a lungo termine, un bel progetto certo, ma di buoni propositi finiti in fumo e lastricata la strada dell'Inter. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.